Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Beh, evidentemente ha levato il segreto di Stato che era stato apposto su quella notte. Sì, ha perso due volte, sia quando abbiamo giocato Barcellona-Real Madrid, sia quando abbiamo giocato Milan-Fiorentina. Credo che la più dolorosa sia stata la seconda. Il segreto di Stato, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, secondo Orfini, che parlava, presidente del PD, riferito a Renzi, era sulla PlayStation, sul fatto che Renzi abbia perduto due volte con Orfini. Sapete che gioca nel tempo libero, diciamo, con la PlayStation, ma si rifà anche a un quando, a proposito di un piano antiterrorismo, il ministro della giustizia Orlando aveva parlato della possibilità anche di controllare le PlayStation che potrebbero essere usate dai terroristi. Sentiamo D'Alema che cosa aveva detto allora. Io dicevo scherzando che il controllo delle PlayStation sembra un attacco ai vertici del partito e del governo, diciamo, dato che, insomma, diciamo, credo che sia una cosa nota questa qui, diciamo. Questa passione di Renzi Orfini, alleggeriamo così, perché di notizie funeste ce ne sono a iosa, anche questa sera ve ne racconterò diverse con effetto notte, a partire da questa sparatoria che è appena finita negli Stati Uniti, l'ennesima in una università, questa volta in California. Ne parleremo tra pochissimo collegandoci direttamente con gli Stati Uniti, e poi questa accusa pesantissima che ritorna da parte di Mosca nei confronti della Turchia in questa crisi forte tra Russia e Turchia. Ancora il ministro della difesa russo avrebbe accusato Erdogan e la sua famiglia, quindi il presidente turco, di trafficare petrolio illegale con l'ISIS, quindi di comprare petrolio da contrabbando dall'ISIS, e in questo modo di finanziarlo con oltre 2 miliardi, un fatturato altissimo che fa l'ISIS, e in questo modo cresce naturalmente, si alimenta, si arma e così via. Anche se tutto è diverso da quello che appare, perché poi scopriremo che ci sono in campo a sostenere i terroristi non solo quelli che hanno la faccia più brutta, ma anche chi dovrebbe essere palesemente dall'altra parte, cioè dalla coalizione anti-ISIS. Ne parleremo poi in modo approfondito più tardi, così come parleremo anche delle misure di sicurezza per il Giubileo. Mancano soltanto 66 giorni, siamo quindi vicinissimi, siamo alle porte del Giubileo. Ci sarà il viceministro dell'Interno Bubbico qui a effetto notte. Poi ci occuperemo anche, per alleggerire, anche dei consumi a Natale, che pare, secondo Confcommercio, che non siano mai stati così alti, in previsione naturalmente, rispetto agli ultimi 7 anni. Voi cosa ne pensate? Pensate anche voi spenderete più soldi per i regali, per il mangiare di Natale quest'anno? Vi sentite più fiduciosi, più ottimisti, o semplicemente avete voglia di un pochino più di gioia, di leggerezza? E poi ci occuperemo anche di una come si può dire, di un mattone che cade sull'atletica italiana, con la richiesta di diverse espulsioni di atleti per doping. Non perdete neanche un istante di effetto notte, partiamo allora con i titoli. Stati Uniti, sparatoria in California, la TV ABC parla di 12 morti e diversi feriti. Poi cercheremo di capire, in California, San Bernardino, la crisi tra Russia e Turchia, Mosca accusa Erdogan, compra petrolio dall'ISIS, ma il presidente turco replica calunnie, si portino delle prove, mi dimetterò. L'ISIS intanto mostra un video in cui decapita una presunta spia russa. Giubileo, il prefetto di Roma Gabrielli comunica per l'8 dicembre allerta sicurezza 4 a livello massimo, effetto notte il viceministro Bubbico. Natale, secondo Confcommercio, questo del 2015 è il primo con consumi in crescita dopo 7 anni di crisi, e sul PIL Squinzi dice bene lo 0,8, ma non basta per la crescita. Doping nell'atletica, chiesta la squalifica per 26 azzurri, tra i nomi Donato e Meucci. La donna uccisa dal marito a Perugia, 8 giorni prima lei aveva mandato un selfie al fratello e all'amica, e col volto tumefatto scrivendo ecco che cosa mi ha fatto, oggi i funerali. Bollette, l'antitrust ha erogato sanzioni per oltre 6 milioni di euro a 7 imprese del settore luce e gas per l'attivazione di forniture non richieste. Lutto nello spettacolo, è morto Gabriele Ferzetti, uno degli interpreti più amati del cinema e del teatro italiano. Partiamo con questa notizia proprio degli ultimi minuti, che viene dagli Stati Uniti, questa sparatoria in California, San Bernardino. Si parla di 12 morti, diversi feriti, caccia all'uomo, forse ai 3 uomini, ma ce lo dice Marco Balsania direttamente dagli Stati Uniti. Ciao Marco, l'ennesima sparatoria, insomma. Sì, l'ennesima sparatoria, l'ennesimo massacro che rilancerà ancora una volta il dibattito sulla violenza e sulla diffusione delle armi negli Stati Uniti e questo fenomeno appunto dei mass shooting. Come dicevi, la situazione è ancora in drammatica evoluzione, polizia e agenti della sicurezza e ambulanze sono nella zona appunto di vicino a San Bernardino, come ricordavi, che è una città di 200.000 abitanti a un centinaio di chilometri nell'entroterra di Los Angeles. La sparatoria è avvenuta nei pressi di un centro, l'Inland Regional Center, un centro di assistenza per handicappati, una struttura dell'area che in varie sedi impiega circa 600-700 persone. Non è chiaro però quante persone fossero nel palazzo, cioè nella palazzina in quel momento, e non è chiaro se gli sparatori siano, come dicevi, uno o più, fino a tre si dice, e se diciamo l'attentato, il massacro sia in qualche modo legato alla struttura oppure se la coincidenza sia casuale. Ecco, la località si trova anche vicino a un grande parco, a un campo da golf, ma appunto sembra l'episodio di estrema violenza sembra appunto sia avvenuto nei pressi o nella struttura dell'Inland Regional Center. 20 sembra al momento appunto le vittime complessive, forse un bilancio che dovrebbe essere destinato a salire. Queste erano le prime indicazioni della polizia, come dicevi, forse 12 i morti più i feriti, però il bilancio è ancora al momento provvisorio purtroppo. Grazie Marco Valsani, e poi man mano vedremo se arrivano aggiornamenti. Intanto leggo un'ultima agenzia: Stati Uniti, polizia nell'edificio cercano il killer stanza per stanza. Intanto spostiamoci sulla crisi sempre più acuta tra Russia e Turchia, con Mosca che torna a accusare il presidente turco Erdogan e la sua famiglia di essere coinvolti nel contrabbando di petrolio con l'ISIS. Gli introiti sarebbero di 2 miliardi di dollari usati per finanziare il terrorismo. Erdogan però torna a negare, a dire che sono calunnie da dimostrare e che se si rivelassero fondate lui si dimetterebbe. E in questa lista di stanza entrano in campo anche gli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato americano nega che ci sia qualunque tipo di legame che suggerisca un coinvolgimento della Turchia nei traffici sul contrabbando di petrolio con l'ISIS, così dice il portavoce Mark Toner. Ma poi scopriremo che insomma anche gli Stati Uniti in qualche modo, lo si è detto tante volte, gli analisti più lucidi anche loro in qualche modo hanno sostenuto o sostengono per vie più o meno indirette i terroristi. Intanto un nuovo video pubblicato dall'ISIS mostra una presunta spia russa decapitata da jihadisti. Nel filmato di 8 minuti, riferisce la CNN, si vede il prigioniero in ginocchio con indosso una divisa arancione, il boia per la prima volta col volto scoperto, dice, lancia delle minacce contro Mosca, dice: voi russi sarete rattristati e umiliati. Il boia si riferisce direttamente al presidente russo Vladimir Putin, che viene definito il cane, non troverai mai pace a casa tua, dice prima di decapitare insomma la persona. Sul fronte della lotta al terrorismo oggi riflettori puntati anche su Londra, perché si va al voto per il via libera raid in Siria. Scintille tra Cameron e Corbyn. 10 ore di dibattito, nervi tesi e contraccolpi politici per una decisione pesante per il Regno Unito con risonanza e conseguenze globali. Il Parlamento britannico vota oggi l'intervento militare in Siria, che potrebbe dare il via ai raid aerei sulla roccaforte ISIS di Raqqa già nelle prossime ore. Il primo ministro David Cameron ha fatto appello alle Camere per intervenire contro quella che ha definito una minaccia per la sicurezza del paese. Di fatto, dopo gli attacchi di Parigi, il 54% dei britannici sarebbero per l'intervento in Siria, anche se nelle ultime ore si stanno moltiplicando le manifestazioni contro un'azione che potrebbe avere le stesse sorti di Iraq e Libia, minacciando civili e 70.000 ribelli non estremisti. La Gran Bretagna dovrebbe dispiegare un contingente aereo di ultima generazione, con missili estremamente precisi, per minimizzare perdite innocenti. Molti laburisti starebbero già con il primo ministro conservatore, che ha fatto appello di ignorare il leader dell'opposizione, Jeremy Corbyn, definendolo simpatizzante con i terroristi. Dopo il no incassato nel 2013, stasera dunque il primo ministro britannico potrebbe ottenere il voto favorevole del suo Parlamento, affiancando finalmente gli alleati Stati Uniti e Francia nella guerra al terrorismo. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Giubileo, oggi c'è stata l'inaugurazione della sala gestione del giubileo. Il prefetto di Roma Gabriele ha detto per l'8 dicembre l'allerta sicurezza è al 4, il massimo livello. Poi a Fettonotte sentiremo il viceministro Bubbico e intanto Papa Francesco, parlando in un'intervista settimanale dell'anno santo Credere, ha detto: è l'anno del perdono, della riconciliazione, io sono un peccatore al quale il Signore ha guardato con misericordia, così dice il pontefice. Per l'economia, dati positivi arrivati da Confcommercio mentre prosegue il dibattito sulla crescita del PIL. Boccata d'ossigeno nel 2014 rispetto agli anni precedenti. Il punto più nero della crisi, dice l'Istat, nel rapporto sul benessere equo e sostenibile sembra essere alle spalle, ma la ripartenza non riguarda tutti gli italiani, con particolari difficoltà nel mezzogiorno. In generale, secondo il documento, aumentano il reddito disponibile e il potere d'acquisto, cresce la spesa per i consumi e sempre meno famiglie mettono in atto strategie per contenere la spesa. Quanto al PIL, il presidente dell'Istat Alleva spiega: è il terzo trimestre consecutivo segno positivo, che quindi conferma una dinamica differente da quella degli anni scorsi del nostro prodotto interno lordo. L'economia finalmente si rimette in moto, commenta il presidente del Consiglio Renzi. Dopo 3 anni il PIL quest'anno sarà positivo e meglio delle previsioni di inizio anno. Stime positive anche dalla Confcommercio, in particolare sulle prossime vendite natalizie, così il presidente Sangalli. Dopo 7 anni di crisi, questo Natale potrebbe finalmente essere il primo con il segno più. La spesa media per i regali, dice la Confcommercio, dovrebbe aumentare del 5% rispetto allo scorso anno, fino a 166 euro a testa. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E voi vi sentite propensi a spendere di più anche voi per questo Natale? Potete scriverlo sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure i messaggi al 349-238-6666. Intanto parliamo di politica col presidente del Consiglio Renzi, che cerca delle chiavi vincenti per le candidature alle comunali. Oggi ha visto Pisapia. Non saranno comunali calate dall'alto. Giuliano Pisapia non intende rinunciare all'endorsement di Francesca Balzani per la poltrona di sindaco di Milano. L'incontro a Palazzo Chigi con Matteo Renzi non produce per il premier l'effetto sperato, ovvero la candidatura dell'ex segretario di Expo Giuseppe Sala. In una nota il PD parla di primarie vere, aperte, coinvolgenti e partecipate, che tengano conto della peculiarità e dell'autonomia di Milano e che portino all'individuazione della candidata o del candidato migliore. Su Sala si scaglia anche Matteo Salvini della Lega. Io, prima di parlare di Sala, vorrei che fosse spiegato ai milanesi e agli italiani qual è il buco di Expo. Quanti sono i centinaia di milioni di euro di debiti che pagheranno i milanesi e gli italiani per i 6 mesi di Expo. Poi riparliamo di Sala. Il premier è in affanno anche per il bonus ai diciottenni. Renzi invia una lettera agli iscritti del PD in cui rivendica i risultati raggiunti dal governo ed esclude che aiutare i giovani sia una mancia elettorale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo sulla cronaca. Raffaella Presta, l'avvocata del quarantenne uccisa a colpi di fucile dal marito il 25 novembre a Perugia. Oggi, nel giorno del funerale a San Donace, nel Brindisino, il paese da cui proveniva, si apprende che la donna, 8 giorni prima di essere uccisa, aveva inviato al fratello e alcune amiche un selfie col volto tumefatto per le botte. Ecco cosa mi ha fatto, scriveva, e nelle carte giudiziarie c'è scritto che lei aveva intenzione di lasciarlo. Lui aveva assoldato allora un investigatore privato pagato per pedinarla a ogni passo. Parliamo anche di smog. Venerdì e sabato tornano le targhe alterne a Roma. Per le bollette l'antitrust ha irrogato sanzioni per oltre 6 milioni di euro a 7 imprese del settore luce e gas per attivazione di forniture non richieste, lo comunica la stessa authority. Le imprese interessate sono Enel Energia, Eni, Acea Energia, Eracom, GDF Suez Energy, Green Network e Between. Una notizia dall'ambiente negativa: le autorità cilene hanno scoperto che i resti di 337 balene sulle coste meridionali della Patagonia, in quello che potrebbe essere uno dei più grandi spiaggiamenti di cetacei registrati nella storia. Si parla di una immagine apocalittica. Esperti cileni hanno indicato che gli accertamenti effettuati finora indicano che i mammiferi marini non sono morti dopo essersi sabbiati sulla costa, ma quando erano in alto mare. E poi un lutto nel cinema: è morto Gabriele Ferzetti, uno degli interpreti più amati del cinema, del teatro italiano. Era nato a Roma il 17 marzo 1925. Tra le sue interpretazioni più celebri, La provinciale di Mario Soldati, Le amiche, L'avventura di Antonioni, La lunga notte del 43 di Vancini e Ciascuno il suo di Elio Petri. Per chiudere, questa richiesta della Procura antidoping della Nado Italia di deferire 26 atleti italiani dell'atletica di 2 anni di squalifica per eluso controllo. Poi ne parleremo nel corso di Effetto Notte. Adesso vi lascio brevemente per aggiornare Chi Viaggia. Intanto sto guardando i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Maurizio dice, a proposito dei consumi che potrebbero crescere a Natale, quando si continua a parlare di riprese perché nella nostra vita di tutti i giorni non si vede, allora bisogna enfatizzare anche quello 0,8%, cioè niente. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, sempre con i vostri messaggi sul Natale, sui dati positivi con commercio, che dice che si spenderà almeno il 5% in più per i regali di Natale. E voi cosa ne pensate? 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Giancarlo dice, per me è sempre Natale, e poi Walter, qualcosa gira ma è poca cosa, comunque si mangia. E comunque riprendiamo adesso con le notizie principali e poi tra poco cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti. Questa sparatoria che c'è stata in California, a San Bernardino, vicino Los Angeles, continua la caccia a 3 uomini bianchi. Ci sarebbero 12 morti, 20 di feriti, ma le notizie continuano ad essere piuttosto frammentarie finora. E poi questa rissa infinita tra Russia e Turchia. Erdogan dice Mosca fa affari con l'ISIS, però entra in campo anche gli Stati Uniti, che dicono non è assolutamente provata. Intanto c'è un video dell'ISIS che mostra una presunta spia russa decapitata. L'Europa dichiara guerra al traffico di armi esplosivi. L'Italia lavora, dice Gentiloni, a un vertice a Roma sulla Libia. E poi consumi in crescita a Natale. L'Italia ora è più ottimista. Renzi dice il prodotto interno lordo meglio delle previsioni, si comincia a marciare. Cosa ne pensate? E poi questa bufera doping sull'atletica azzurra, chieste 26 squalifiche. Questo преступный business вовлечено высшее политическое руководство страны, президент Эрдоган и его семья. Presidente Erdogan, un po' si capisce, russo, ma abbastanza, ci sono due parole, business e Erdogan, che si capiscono. Questo è il ministro della difesa russo, Antonov, che rilancia l'accusa che già aveva mosso Putin giorni fa a Erdogan, al presidente turco, alla sua famiglia, dicendo sono coinvolti nel contrabbando di petrolio, nel traffico illegale di oro nero della Turchia con l'autoproclamatosi Stato Islamico. Un'accusa, appunto, vi dicevo, già lanciata nei giorni scorsi da Putin contro Erdogan, il quale però chiede che si portino delle prove, dice sono delle calunnie e sarei pronto a dimettermi se così fosse, ma se non ci sono delle prove è chi mi accusa che deve dimettersi. Il ministro Antonov però oggi in una conferenza stampa con i giornalisti ha detto che la Russia è in possesso di immagini satellitari che provano questo contrabbando, perché ci sarebbero delle immagini con dei camion carichi di petrolio rubato in Siria e in Iraq che attraversano la frontiera tra la Siria e la Turchia. Gli introiti per questo traffico per l'ISIS sarebbero di 2 miliardi di dollari. E poi in serata anche la Casa Bianca si è pronunciata su queste accuse, dicendo che non esistono questi traffici tra Turchia e ISIS. Però la situazione è molto più complessa di quanto sembri. Ne parliamo con Claudio Gatti, inviato speciale del Sole 24 Ore. Ciao Claudio. Ciao. Claudio, tu tra l'altro in una bellissima, ampia inchiesta di ieri sul Sole 24 Ore, quasi 2 pagine, tracci proprio questi intrecci che non vorremmo neanche quasi sapere. Si parla di Qatar, si parla da tempo anche dell'Arabia Saudita, però tu dici che anche gli Stati Uniti in qualche modo danno il loro contributo ad alimentare l'ISIS, le armi che si passano al sedicente Stato Islamico, no? Beh, sono più cauto, diciamo che vedo un parallelo con quello che è successo negli anni '80 e poi in Afghanistan, quando gli Stati Uniti hanno usato il Pakistan per armare e finanziare i mujahideen che combattevano l'invasore sovietico, e poi da quel gruppo di mujahideen nacque Al-Qaeda. Quindi gli Stati Uniti non finanziarono mai Al-Qaeda, però direttamente, però. No. Questo è un po' quello che mi risulta stia succedendo, nel senso che gli Stati Uniti hanno, attraverso Turchia e Qatar, almeno su questo siamo abbastanza documentati, finanziato e armato movimenti e gruppi islamisti che nel corso degli anni, perché questa cosa va avanti come minimo dal 2011, cioè da quando la primavera araba e la rivolta contro Gheddafi scoppiò sia in Libia che in Siria, in questo periodo gli Stati Uniti hanno lasciato e supportato anche le iniziative di Turchia e Qatar. La Turchia rispetto all'ISIS c'ha un motivo in più per sostenere quel movimento, che è la questione curda. Cioè, i grandi nemici sul campo, gli unici che sono stati in grado di fronteggiare sul campo ISIS sono i curdi. Tante donne curde, fra l'altro, no? Tanto per insomma sottolineare anche questa cosa. Ma i curdi sono, tra l'altro i curdi siriani sono alleati del PKK, che è il partito dei lavoratori del Kurdistan di Öcalan, nemico storico di Ankara, e quindi dal punto di vista della Turchia l'ISIS è un nemico del suo nemico. E quindi conviene in qualche modo almeno non combatterlo, se non salvaguardarlo. Sì, penso che sia andato ben oltre, perché la famosa autostrada della Jihad, che collegava il sud della Siria con il sud della Turchia con la Siria, è stata usata per anni. Sappiamo tutti che decine di migliaia di combattenti stranieri, foreign fighters, sono arrivati in Siria attraverso la Turchia, così come i rifornimenti. Questa cosa del petrolio è una cosa che si dice nel mondo dell'intelligence da tempo, anche gli analisti lo dicono e lo pensano, perché il petrolio delle zone controllate dal califfato sia in Iraq che in Siria non ha sbocchi via oleodotti, quindi si usano questi i camion e nella rotta, quella appunto la famosa autostrada della Jihad, si è sempre pensato che oltre ad armi e aiuti di altra natura passassero anche i camion carichi di petrolio. Quindi vogliamo dire che è fondata questa accusa di Putin nei confronti di Erdogan della Turchia? Sicuramente è possibile che sia dimostrabile, un altro discorso, perché è chiaro che è un confine lunghissimo, quindi che ci sia un controllo assoluto e si sappia qual è il carico di ogni camion, penso che non lo si possa dire per nessun confine. Però, essendo questo un problema centrale, quello del finanziamento di ISIS, devo sospettare che l'accusa sia fondata. E in tutto questo però gli Stati Uniti negano, anche perché si sa che la Turchia è uno strategico alleato per la NATO, no? E in qualche modo anche per l'Europa. Gli Stati Uniti sono preoccupati, ma nello stesso tempo non si muovono in questo senso. Ma gli Stati Uniti non possono muoversi, un po' in generale in Siria, perché non sanno come muoversi, ma nello specifico la Turchia non hanno scelta. La Turchia ha appena riaperto a luglio la base di Incirlik e le basi NATO ai bombardieri americani, che le usano per attaccare sia il ISIS, il califfato, sia in Iraq che in Siria, e quindi sono costretti a inghiottire il rospo. Cioè, la Turchia, come ho scritto nel mio pezzo di ieri, è un amico nemico, cioè fa quello che solo il Qatar fa nel mondo islamico, cioè concede il proprio territorio per alle basi militari occidentali della NATO, nello specifico turco, però è anche inaffidabile sul fronte della lotta al terrorismo, e in più a questa questione centrale per i turchi, che è la questione curda, e nel momento in cui gli americani hanno deciso, almeno questa amministrazione, di non mettere forze in campo dopo l'esperienza Iraq, non vogliono mandare i propri soldati in Siria, l'unica cosa che possono fare è rafforzare i curdi, ma quello è esattamente quello Erdogan non vuole né può permettersi, e quindi di fatto c'è un conflitto, un contrasto di interessi enorme. Enorme, purtroppo, Claudio Gatti, non si capisce più niente, non ci si sa neanche di chi fidarsi, diciamo così, da persone comuni, no? Grazie Claudio Gatti, inviato speciale del Sole. Ciao Claudio. Grazie a voi. Ciao. In Intanto vedo, ultima agenzia sulla sparatoria in California, sarebbero fuggiti dentro un SUV nero i tre uomini che hanno sparato dentro un centro di servizi sociali a San Bernardino in California. Lo riferiscono i media americani, quindi per il momento sono fuggiti. Vediamo se entro sera si sa qualcosa di più, se mai riuscissero a raggiungerli i potenti mezzi americani. Adesso però ritorniamo ancora sulla Turchia con il nostro Marco Barbonaglia a Istanbul. Marco, ieri ci eravamo lasciati dopo quel caso strano che non si capiva se era una bomba vicino alla, che era scoppiata vicino alla metro ad Istanbul, oppure un problema elettrico, insomma, però non so, che non si è saputo più granché. Concentriamoci invece sulle reazioni di Erdogan a queste accuse, no? Ha detto: nessuno può lanciare calunnie contro la Turchia sull'acquisto di petrolio dell'organizzazione ISIS, nel momento in cui verrà provato mi dimetterò. Sì, esatto, buonasera Roberta. Diciamo che tutto parte effettivamente dalle parole pronunciate da Erdogan, che aveva detto: la Turchia compra petrolio dall'ISIS, forniscano le prove e io mi dimetto. Putin ha preso la palla al balzo, ha lasciato la parola appunto al Ministero della Difesa, che ha già accusato direttamente il leader turco e anche la sua famiglia di fare affari con lo Stato Islamico, quindi è un'accusa pesantissima che in ogni caso renderà ancora più difficile un'eventuale marcia indietro. Ma il problema a monte è sempre lo stesso, che Putin e Erdogan sono due personaggi estremamente simili, che incarnano un potere simile, entrambi si propongono come uomini forti e nessuno dei due può evitare in questo momento di mostrare i muscoli. Forse in questo momento usare le maniere più forti, in particolare la Russia. Putin d'altra parte non vuole, non può far passare l'abbattimento del jet senza mostrare una reazione. Ecco allora che arrivano queste accuse per bocca del viceministro della difesa Antonov, che è arrivato a puntare il dito contro il figlio, contro il genero di Erdogan, e arriva naturalmente la reazione di Erdogan, che replica: nessuno ha il diritto di calunniarci, la Turchia non ha perso i suoi valori di sicuro al punto di arrivare a comprare il petrolio da un'organizzazione terroristica. Poi c'è una replica anche del Pentagono, perché non dimentichiamoci che la Russia ha utilizzato questi filmati, che mostrano poi degli autocontainer in movimento, diciamo, anche per attaccare la coalizione guidata dagli Stati Uniti, perché la Russia ha detto: la coalizione a guida USA non bombarda queste autocisterne, per esempio. Quindi anche il Pentagono ha smentito. Marco Barbonaglia, ci sentiamo penso nei prossimi giorni, che questa storia andrà avanti a lungo e poi vengono sempre novità ultimamente dalla Turchia. Grazie intanto, Marco. Grazie a voi, buona serata. Ciao Marco. Guardavo intanto i vostri messaggi. Dice Dario da Como: contrariamente agli anni passati, quest'anno ho fissato un budget per i regali, visto che Confcommercio invece dice che i consumi per Natale e i soldi che si spenderanno per i regali di Natale sono per la prima volta dopo 7 anni di più. Poi invece dice un ascoltatore, ascoltatrice al 349-238-6666: da Putin ho sentito dire due cose giuste, che il premier siriano deve essere scelto dal popolo siriano, cioè il presidente siriano, diciamo, e che l'ISIS non si può sconfiggere senza un attacco di terra. Mentre Gennaro da Civitavecchia dice: non c'entra molto con i titoli di questa puntata, ma volevo chiedere come devo scrivere su Facebook effetto notte. Lo faccio, ma trovo di tutto che hanno poco a che fare con la vostra trasmissione. Scusa Gennaro, adesso non vorrei insegnarti delle cose, diciamo, banali, però se tu metti effetto notte Roberta Giordano, per esempio, dovrebbe uscire. Mi raccomando, aderisci senza indugio anche tu alla pagina. Ci sentiamo tra pochi istanti. Ho deciso di indire un giubileo straordinario. Radio 24 vive l'inizio del giubileo in diretta. L'8 dicembre non perdere il nostro speciale sull'inizio del giubileo straordinario. Con i nostri inviati dal Vaticano, le voci degli organizzatori, le opinioni dei cittadini, gli approfondimenti sugli sviluppi del sinodo e dello scandalo Vatilix. L'8 dicembre segui le storie e le voci del giubileo insieme a noi alle 17 su Radio 24. Sarà un anno santo della misericordia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E tra poco ve le ricordo in pochi secondi le notizie. Roberta Giordano sempre con voi, anche voi l'ascolto, è vero, da tutto il mondo spesso scrivono ascoltatrici e ascoltatori che ascoltano Effetto Notte anche per essere sempre aggiornati su quello che si dice giorno per giorno in modo esauriente. Guardavo sulla pagina Facebook di Effetto Notte i vostri messaggi, anche al 349-238-6666 a proposito dei consumi per il Natale che dovrebbero crescere secondo Confcommercio, come non è successo da 7 anni. Roberto dice: dal mio punto di vista sono un docente universitario, da anni abbiamo sempre lo stesso stipendio, blocco degli riscatti. Ogni anno che passa il Natale della mia famiglia è sempre più parsimonioso, non esiste motivo per spendere di più, anzi tutto suggerisce di essere molto prudenti. Tra poco affronteremo un altro argomento, la sicurezza per quanto riguarda il Giubileo. Intanto vi aggiorno su quello che sta succedendo negli Stati Uniti a proposito della sparatoria che c'è stata a San Bernardino in California, con per ora si parla di 12 morti e una ventina di feriti, è stato informato anche Obama. Hillary Clinton, che è la candidata democratica alla Casa Bianca, dice bisogna agire per fermare la violenza con le armi subito. E poi, poi ritornerà di nuovo questa polemica delle armi facili, e poi c'è un testimone che dice di aver visto diversi corpi per terra. Man mano vi aggiornerò, adesso vi ricordo quali sono le altre notizie più importanti della giornata. A parte questa notizia della sparatoria in California, la crisi tra Russia e Turchia, di cui abbiamo appena parlato, Mosca accusa Erdogan, compra petrolio dall'ISIS, ma il presidente turco replica calunnie, si portino delle prove e mi dimetterò. E l'ISIS intanto mostra un video in cui decapita una presunta spia russa. Giubileo, il prefetto di Roma Gabrielli comunica per l'8 dicembre allerta sicurezza al massimo livello, al 4, ne parleremo tra pochissimo. Natale, secondo Confcommercio, questo del 2015 è il primo con consumi in crescita dopo 7 anni di crisi. E sul PIL, il presidente di Confindustria Squin si dice bene lo 0,8, ma non basta per la crescita. Doping nell'atletica, chiesta la squalifica per 26 azzurri, tre nomi, Donato e Meucci. Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto Gabriele Ferzetti, uno degli interpreti più amati del cinema e del teatro italiano. Dicevamo che mancano soltanto 6 giorni, siamo proprio agli sgoccioli per l'inizio del Giubileo, che inizia, lo sapete, l'8 dicembre. Tanto si è parlato da tanto tempo di misure di sicurezza, del rischio di attentati, temi che naturalmente hanno acquisito dopo le stragi di Parigi un'assoluta centralità, se possibile ancora più assoluta, tanto che il prefetto di Roma Gabrielli ha detto per l'8 dicembre, avete sentito, l'allerta sicurezza è a livello 4, cioè il massimo. Oggi a Roma ci sono state un po' le prove generali per il Giubileo in Piazza San Pietro durante l'udienza del Papa, con imponenti misure di sicurezza intorno a tutto il Vaticano, anche se le persone erano non moltissime dopo gli attentati di Parigi, la seconda udienza in cui non c'è proprio questa folla. I fedeli comunque che sono entrati in Piazza San Pietro sono stati sottoposti, come ormai prassi, a un rigoroso controllo dei metal detector. E dalla sala operativa per il Giubileo, che è stata inaugurata oggi in Piazza San Giovanni da Verrazzano, con 2000 telecamere interconnesse che riprendono vari punti della città e proiettano poi le immagini sui monitor, il prefetto di Roma Gabrielli ha spiegato. L'8 dicembre noi non ci aspettiamo una situazione di flussi particolarmente eccezionale, tant'è che noi l'abbiamo classificata a livello 2, quindi da un punto di vista di safety, e a livello 4 da un punto di vista di security, ma abbiamo approntato un'ulteriore implementazione dei sistemi di verifica delle persone che accederanno. E poi ha parlato ancora Gabrielli a proposito di cittadini e pellegrini, dice vengano sereni. Io credo che i cittadini di questa città, come i turisti che verranno, i pellegrini, che credo che siano e debbano essere nella condizione di venire tranquillamente, serenamente, per la ragione che la minaccia che incombe su di noi è una minaccia assolutamente indefinita. Un atteggiamento preventivo, credetemi, non ha nessun tipo di esistere. I cittadini devono pretendere che le istituzioni facciano tutto quello che è in loro possesso per garantire questa cornice di sicurezza. Dunque chiedo al viceministro dell'Interno Filippo Bubbico, tutto sotto controllo, anche il suo raffreddore, viceministro? Beh, diciamo, il raffreddore è tipico delle stagioni che cambiano. Quindi è normale. Bisogna saper affrontare i raffreddori, ma bisogna saper affrontare anche le minacce. Già. Il prefetto Gabrielli mi pare che abbia dato un quadro più che esauriente di come ci stiamo preparando. Sia chiaro, le minacce sono reali, i pericoli esistono ed esistevano anche alcuni mesi fa, quando ci stavamo apprestando ad avviare questa straordinaria esperienza che è stata l'Esposizione Universale a Milano, che è durata 6 mesi e che ci ha consentito di concludere questa esperienza in maniera positiva, in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza. Noi ci auguriamo che accada altrettanto anche in futuro e che quest'anno di Giubileo possa rappresentare anche il momento per riflettere sulla necessità di sconfiggere ogni forma di violenza, perché, come è stato detto spesso dal presidente Renzi, noi il terrorismo lo dobbiamo sconfiggere qui ed ora con azioni di tutela, rafforzando i sistemi di sicurezza, ma dobbiamo sconfiggerlo guardando al futuro, vincendo la cultura dell'odio, della violenza, svuotando i giacimenti di odio che si sono accumulati nel corso degli anni. Quindi dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà, dei problemi che abbiamo di fronte, ma avere fiducia, perché un mondo nel quale religioni diverse, interessi diversi possano convivere in un quadro di reciproco rispetto, è possibile non solo immaginarlo ma anche costruirlo. E questa è anche la parte grossa e importante della prevenzione che possiamo definire culturale, viceministro Bubbico. Senta, dal punto di vista poi concreto della strumentazione degli strumenti, si diceva tante telecamere piazzate un po' dappertutto, no? Poi uomini e donne delle forze dell'ordine, immagino c'è anche l'esercito, chi c'è in campo concretamente? Ma guardi, noi contiamo molto sulla nostra capacità di prevenzione, e la prevenzione è possibile realizzarla attraverso lo scambio consapevole di informazioni, di segnali premonitori, perché è proprio su quello che si basa l'attività di governo di processi estremamente complessi. E noi siamo consapevoli di avere, di poter contare su forze di polizia addestrate, competenti, che hanno vinto sfide importanti nel corso dei decenni passati, e contiamo anche su una grande capacità operativa dei nostri servizi. Speriamo che tutto questo possa bastare per garantirci serenità e tranquillità. Ce l'auguriamo, intanto buon lavoro viceministro Bubbico, grazie. Grazie, tanto. Grazie. Farei sentire anche proprio in chiusura di questo blocco anche le raccomandazioni di Gabrielli a chi arriva a Roma. Qual è la raccomandazione che oggi faccio tramite voi? Venite presto e soprattutto venite non portando la vostra casa con voi. Meno ci saranno bagagli, meno ci saranno borse, meno ci saranno cose ingombranti e più veloci saranno i controlli. Quindi valigie leggere, anche se si porta 1000 scarpe, pantaloni, camicie, vestiti, mi raccomando. Questo è la mia indicazione, quella di Gabrielli. Prima di lasciarci brevemente per la viabilità, ancora i vostri messaggi sui consumi a Natale, dice Gino, magari anche i salti mortali pur di fare almeno il 5% in meno, dice invece di spese per Natale. E poi un altro ascoltatore al 349-238-6666, ma c'è anche la pagina Facebook di Effetto Notte, aumento di consumi a Natale, tutte balle inventate da Renzi, il solito imbroglione, ma quando si vota? Chiede questo ascoltatore, si vota per le comunali, avete sentito a primavera probabilmente, tra primavera e giugno, e poi vabbè, le politiche sono, se tutto va bene, nel 2018, tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presento. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. È la serata delle notizie che arrivano così a bomba praticamente. Adesso viene questa notizia dal Brasile, un'agenzia di pochi istanti fa. Il presidente della Camera brasiliana, Eduardo Cunha, ha autorizzato oggi l'apertura di un procedimento di impeachment nei confronti della presidente brasiliana Dilma Rousseff. In questo momento non specifica il motivo, ma sapete che è una procedura abbastanza grave, insomma, non così consueta. E poi vi ricordo brevemente le notizie più importanti. Questa sparatoria negli Stati Uniti, a San Bernardino in California, sono ricercati tre uomini bianchi che sarebbero scappati su un SUV, e c'è un testimone che racconta, dice, un uomo armato è entrato nel centro lì a San Bernardino, ha iniziato a sparare, ho visto corpi a terra, e poi ha riferito che si è salvata perché si è chiusa a chiave dentro un ufficio. Le altre notizie importanti sono questa crisi infinita che perdura tra Russia e Turchia, con Mosca che accusa Erdogan di fare affari col petrolio contrabbandato dall'ISIS, ma Erdogan dice si provi, è una calunnia. E poi consumi in crescita a Natale per quanto riguarda il nostro paese, l'Italia ora è più ottimista, questo dice Confcommercio, ma anche Renzi. Bufera doping sull'atletica azzurra, chieste 26 squalifiche, ne parleremo tra pochissimo. E poi nebbia fitta sulla Consulta, ancora nuovo voto ma andato in fumo praticamente per eleggere i nuovi giudici della Consulta. E poi addio Gabriele Ferzetti, un gentiluomo prestato al cinema. Europa 24 notte. In Europa è allarme glifosato, è scontro tra scienziati sulla pericolosità per la salute degli esseri umani dei pesticidi a base di glifosato. La questione è approdata alla Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, che entro giugno 2016 dovrà decidere. Nel frattempo però la molecola incriminata continua a essere utilizzata tra le polemiche di molti. Sentiamo il servizio di Alessandra Schepisi. Ma il glifosato è cancerogeno o no? La questione non è di secondaria importanza, il nome forse non tutti lo conosceranno, ma si tratta in realtà del principio attivo più usato al mondo per produrre erbicidi comunemente usati in agricoltura, tant'è che sulla questione del glifosato sono volati stracci tra due prestigiose organizzazioni scientifiche internazionali nella sede della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. Da una parte gli esperti dello IARC, l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, che lavora per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'altra i loro colleghi dell'EFSA, l'autorità di sicurezza alimentare dell'Unione Europea. Per i primi il glifosato è probabilmente cancerogeno per l'uomo, per i secondi invece è improbabile che lo sia. A questo punto il Parlamento Europeo vuole fare chiarezza chiedendo un supplemento di verifica, in particolare lo chiede sui coadiuvanti utilizzati nella produzione insieme al glifosato. Nell'attesa dei risultati però decide di prorogare l'autorizzazione di questa molecola, probabilmente per tutti. Tutto il 2016, il presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, Giovanni La Via. La Commissione Europea ha deciso di affidare all'Agenzia Europea per l'analisi delle sostanze chimiche un supplemento di indagini per verificare se le sostanze chimiche che vengono ad essere utilizzate nei formulati commerciali hanno o non hanno questo effetto congiunto. Quindi obiettivamente andremo incontro molto probabilmente a una richiesta di proroga almeno per un anno e mezzo, per fare una valutazione in condizione di certezza o di minore incertezza. Ecco, però nel frattempo in una situazione di incertezza, finché non si avranno questi altri risultati, si continuerà ad usare una sostanza che potrebbe usare, ma in realtà bisognerà vedere anche le condizioni di utilizzo, per cui la proroga potrebbe anche essere data dalla Commissione Europea con alcune prescrizioni, però una cosa è certa, l'EFSA ha condotto sulla molecola un grande studio e quindi obiettivamente l'incertezza da questo punto di vista è contenuta e anche gli effetti. Sappiamo anche l'importanza che ha questa molecola in agricoltura e sappiamo quindi che inevitabilmente c'è una forte domanda, non essendoci ancora prodotti sostitutivi di adeguata validità. Ma i 5 Stelle non ci stanno e promettono battaglia. Secondo gli europarlamentari grillini, infatti, le conclusioni dell'Autorità per la Sicurezza Alimentare Europea, che avrebbe scagionato la molecola, sarebbero poco attendibili e poco credibili. Andrebbe invece seguito il parere dello IARC, Eleonora Evi, componente della stessa Commissione Ambiente. Lo IARC è come dire, per noi quell'organismo che più di tutti rappresenta una posizione indipendente e super partes. L'EFSA non avrebbe questa, diciamo, terzietà, imparzialità. Perché l'EFSA è un'agenzia proprio dell'Unione Europea che si occupa appunto di valutare la sicurezza alimentare di determinati prodotti, per quale fine? Il fine è commerciale, quindi per dare un'autorizzazione al commercio nei confini dell'Unione Europea. Quindi è, come dire, molto più, mettiamola così, incline ad ascoltare diversi pareri che non sono solo quelli del mondo scientifico, ma anche eventualmente quelli proposti dall'industria. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E adesso parliamo dell'ennesimo scandalo doping che questa volta però colpisce l'Italia, vero Dario Ricci? Sì, Roberta, come già è più volte ricordato, 26 azzurri accusati di eluso controllo, sono, diciamo, l'ho definita la migliore gioventù dell'atletica leggera italiana, perché ci sono tutti i nomi più grandi, dalla medaglia di bronzo olimpica nel triplo farà Bizio Donato, a Andrew Ao, a Daniele Greco, l'altro grande triplista, a Meucci, il campione europeo della maratona. E l'uso controllo, che cosa? L'accusa che gli viene fatta dalla procura antidoping è quella di aver appunto evitato dei controlli antidoping, il che nelle procedure antidoping è già di per sé un reato, e il rischio adesso, questi atleti, se condannati, rischiano 2 anni di squalifica, e anche la stessa medaglia di Donato, una delle più brillanti, potrebbe essere a rischio, perché bisogna vedere da quando partirebbe questa squalifica. Nel caso anche quel bronzo così prestigioso di Londra 2012 sarebbe a rischio. Pochi istanti fa siamo riusciti a contattare Francesco Ugagliati, che è l'ex CT della Nazionale di Atletica Leggera ed era proprio il commissario tecnico nel periodo di queste infrazioni. Lo sentirei per poi spiegare quali sono rapidamente i possibili scenari. Sentiamo. E io sono veramente dispiaciuto di questa cosa, perché sinceramente quando l'ho visto stasera sono rimasto veramente un po' così di stucco, nel senso che non pensavo ci fossero così tanti atleti che potessero cadere in questa situazione strana. E poi non la capisco sinceramente, non la comprendo come possa essere accaduta una cosa del genere. Mi sembra veramente una cosa talmente strana, cioè qui ci sono atleti sui quali io metterei le mani sul fuoco, voglio dire. Allora, il rischio è gli scenari, che sia stato un problema di comunicazione tecnica, no? Rispetto al sistema informatico amministrativo, oppure, e forse dico io anche più probabile, che si sia creato un sistema di coperture che abbia permesso a molti atleti, grandi e piccoli, di eludere questi controlli. Sono non solo Russia, purtroppo. A questo punto. Sì, ricordiamo che però non stiamo parlando di vere e proprio di accuse di doping, ma di mancati controlli, e quindi in questo caso comunque le squalifiche sarebbero comunque pesanti, ma non abbiamo provette con sostanze vietate. Beh, almeno questo. Grazie Dario Ricci. Noi ci risentiamo alle 22.